9 in punto. Ricordati! Mancano 5 giorni all'aumento dell'IVA. Sapete da cosa partiamo questa mattina? Partiamo dal perfetto, perfetto editoriale, commento di Guido Gentili sul Sole 24 Ore. Scrive tra le altre cose Gentili: sono fuori luogo la sorpresa e i richiami di bandiera, mai come in questo caso sull'interesse nazionale tradito e calpestato. Bisogna dire le cose come stanno. Se tradimento c'è stato, la prima responsabilità è proprio quella della classe politica. E prosegue: quella classe politica che ha sempre guardato a valle di queste operazioni, e parliamo naturalmente di operazioni come quelle di Telecom, cercando di contrattare le opzioni a lei più favorevoli e infischiandosene a monte del profilo industriale del paese necessario per reggere la sfida sui mercati. La pagina delle privatizzazioni all'italiana annovera molti capitoli ingloriosi e poche riflessioni strategiche su cosa e come dismettere e cosa no. Abbondano al contrario le pagine per non intaccare comunque le cittadelle del roccioso capitalismo municipale pubblico, fonte di potere e consenso. Ancora, e ve lo voglio leggere ancora perché vale veramente la pena. La grande crisi ha fatto il resto. Le operazioni di sistema, tra virgolette operazioni di sistema, del capitalismo relazionale a bassa intensità di capitali e forte propensione al debito hanno via via perso forza ed è emersa una nuova e più selettiva politica societaria delle partecipazioni. Il resto, le conseguenze di tutto questo, le vediamo sulle pagine dei giornali. Mentre andiamo in onda in questo momento, presidente di Telecom Italia, Franco Bernabè, è in audizione al Senato. Dice tra le altre cose che ha saputo del riassetto sia di fatto del prossimo acquisto da parte di Telefonica, l'operatore telefonico spagnolo, del controllo di Telco, la società che detiene il controllo di Telecom ma con il 22,6%, la cifra se non erro, è questa dai comunicati stampa. E c'è l'altro problema, l'altra questione che vogliamo porre, perché si parlava nel commento di Gentili di questioni di strategia, insomma. Allora, che cos'è veramente strategico? Si può ragionare sulla strategicità di un'impresa al di là della sua italianità? Si può ragionare sul fatto che Telecom Italia è proprietaria della rete telefonica, è detentrice dei dati di milioni di cittadini, è il soggetto che dovrebbe essere il soggetto centrale, almeno teoricamente, dello sviluppo digitale di questo paese, altro elemento fondamentale? È di tutto questo che vogliamo ragionare oggi, oltre naturalmente all'italianità che tiene dentro la vicenda di Alitalia, che soffre degli stessi difetti elencati da Gentili, tutta l'operazione Alitalia naturalmente, e che ha portato naturalmente al fatto che adesso l'azienda è di nuovo in difficoltà e probabilmente finirà in mano francese. Buongiorno Carlo Stagnaro, direttore di ricerche e studi dell'Istituto Bruno Leoni. Buongiorno. Io immagino che avrà parecchio da contestare a quello che ho detto, Ma più che da contestare, a me pare che oggi, e lo scrive benissimo Guido Gentili sul Sole, come lei ha ricordato, lo scrive altrettanto bene Alessandro Penati sulla Repubblica, siamo di fronte al palese fallimento delle cosiddette operazioni di sistema, cioè operazioni che hanno avuto una cabina di regia politica, di sinistra nel caso di Telecom, di destra nel caso di Alitalia e così via, quindi totalmente bipartisan, che hanno avuto nelle banche di sistema lo strumento e anche, come dire, il promotore da molti punti di vista, e che ci portano oggi a osservare in maniera quasi esterrefatta come il risultato, dopo anni di mala gestione di imprese tra virgolette strategiche, poi immagino torneremo sul significato di questo termine, abbia condotto a vendere queste aziende o a quelli che abbiamo cacciato a calci nel sedere qualche anno fa o a quelli che abbiamo accolto come alleati meno pericolosi rispetto ad altri, a una frazione del prezzo che sarebbero stati disposti a pagare, e avendo perso anni preziosi durante i quali, questo vale la pena dirlo, noi oggi ci lamentiamo del fatto che gli stranieri arriveranno per spogliare le nostre aziende e non investiranno, ma durante gli ultimi anni in cui gli stranieri erano alla porta, gli italiani sul predellino, queste aziende non hanno investito, hanno creato debito, hanno creato problemi a se stesse e al paese. E questa è la sua idea. Poi verremo al dettaglio di quello che, almeno secondo lei, deve essere il futuro di Telecom Italia e di questa situazione, anche il futuro della rete, perché poi questo è il tema del quale si sta dibattendo in questo momento. Voglio salutare intanto Giorgio Airaudo, deputato di Sinistra Ecologia e Libertà. Buongiorno Airaudo. Buongiorno a voi. Oggi volevamo un esponente dell'opposizione, o almeno o anche due, insomma, per capire un attimo che pungolo volete dare al governo. Abbiamo cercato, lo dico proprio per chiarezza, perché io so che ci sono molti ascoltatori che hanno votato Movimento 5 Stelle, che ci diranno: ah, non avete chiamato quelli del 5 Stelle. Li abbiamo chiamati, ci hanno detto che, giuro, stanno studiando il dossier. Va bene, allora Airaudo, che cosa dovrebbe fare il governo? Ma guardi, io penso che il governo dovrebbe urgentemente venire in Parlamento e dirci che cosa intende fare, non solo sulla vicenda Telecom, ma anche su quella all'Italia e anche su quella Finmeccanica, perché è stata un po' oscurata dalla notizia di ieri. Ma noi abbiamo tutta una serie di asset industriali, alcuni come quelli di Finmeccanica che controlliamo pubblicamente attraverso il tesoro, che sono all'incanto, sono alla vendita di alleanze discutibili, e purtroppo il carattere di queste alleanze è più o meno il solito: sono concorrenti che compreranno e non investiranno sulle aziende in Italia, quindi con ricadute quasi certe dal punto di vista occupazionale nel giro di un breve medio periodo. Sono aziende che ci eliminano dalla competizione globale, quelle che ci acquisiscono, e quindi manca un disegno industriale. Quando si arriva al dunque, si passa dagli annunci ai fatti, non c'è un disegno che garantisca la struttura industriale di questo paese, che garantisca l'occupazione, quella vera. Ci si sciacqua la bocca dicendo che non si fa occupazione per decreto, e poi quando si può orientare in qualche modo la produzione, quanto si può dire la propria sul futuro, sugli elementi strutturali, si balbetta, ci si limita a dire, come ha detto ieri in modo sconcertante il Presidente del Consiglio, che è un'azienda privata, cosa volete che ci facciamo? Vado in cerca di investimenti, se ne arrivano anche europei, ben vengano, e invece ci sono problemi irrisolti. Sul fatto che queste vicende abbiano una responsabilità antica, come avete già detto, non c'è dubbio, sul fatto che abbiano una responsabilità politica anche. Aggiungo che c'è anche un problema di classe imprenditoriale, cioè gli imprenditori che si sono rifugiati nei mercati protetti di queste privatizzazioni le hanno spolpate senza investire, cioè li riconsegnano coi debiti. Quindi forse bisogna chiamare in causa anche quella parte di imprenditoria privata che ha speculato sulle privatizzazioni. Allora vi annuncio che poi più avanti nel corso di questa trasmissione sentiremo anche un collega del Sole 24 Ore che ha fatto un po' di calcoli su quanto valore ha perso Telecom dall'inizio delle sue vicende, insomma, quanto valore ha fatto perdere agli azionisti. Emiliano Brancaccio, economista, docente di economia politica all'Università del Sannio, promotore tra l'altro insieme a un suo collega Riccardo Realfonso e a una serie di economisti di livello internazionale, di un appello sull'Europa che è stato pubblicato nei giorni scorsi dal Financial Times, un appello nel quale tra l'altro si paragona, sì, fa una similitudine, no, tra il clima di austerity che viene imposto ai paesi del sud Europa, a noi in sostanza, e alla Spagna, alla Grecia, al pagamento dei debiti e delle riparazioni di guerra a cui venne obbligata la Germania dopo la Seconda Guerra Mondiale, quindi una posizione forte. La voglio però prima di tutto sentire su questa vicenda, insomma, su questa questione dell'italianità e della strategicità. Brancaccio, prego. Dopo la prima guerra mondiale, per la verità, comunque. Pardon, scusi. Sì. Allora, il sì, per quanto riguarda questo tema, io vorrei, se lei permette, innanzitutto fare una premessa, nel senso che mi pare che si stia dicendo che la Spagna è meglio di noi e la Spagna ci sta comprando. Ecco, a me sembra piuttosto che questa sia una interpretazione, come dire, un po' fuorviante di tutta questa vicenda. Mi sembra piuttosto che tra Spagna e Italia si rischia di determinare una guerra tra poveri. Voglio dire questo perché quando si viene a dire questa acquisizione da parte di Telefonica, di Telecom, è in realtà l'indice del fatto che la Spagna sta andando meglio di noi, ecco, questa mi sembra francamente una lettura ideologica e demagogica. No, ma poi Brancaccio, mi permetta, ma di cosa stiamo parlando? Telefonica è gravata dal doppio dei debiti di Telecom Italia, quindi insomma, ecco, quindi parliamo di cose serie. Cioè, quello che dico, Brancaccio, a prescindere dalla Spagna è messa meglio o è messa peggio, qua parliamo di un'azienda telefonica che, scusate la cacofonia, che si chiama Telefonica, che appunto ha il doppio del debito di Telecom Italia, mi pare siamo sui 45 miliardi, 50 miliardi contro i 28 di Telecom, quindi stiamo parlando di queste dimensioni. Prego, comunque. Chiaro. No, ma difatti io mi sono permesso di fare questa precisazione perché diversi colleghi giornalisti stamattina prendevano il rapporto dell'Unione Europea, dicevano, ecco, vedete, tra l'altro la Spagna ha fatto le riforme, in particolare le riforme del mercato del lavoro, e questo ha determinato un aumento di produttività e questo è l'indice del fatto che gli spagnoli stanno andando meglio di noi, senza tener conto del fatto che uno dei motivi per cui la Spagna ha aumentato la sua produttività in questi ultimi anni è dovuto al fatto che la Spagna ha licenziato e si è ritrovata con un aumento dei disoccupati del 237% negli ultimi anni, a fronte di un aumento pur gravissimo in Italia del 102%. Quindi dovremmo cominciare, come dire, ad evitare letture demagogiche dei rapporti dell'Unione Europea, perché altrimenti non ci capiamo niente. Andando su Telecom e in generale, diciamo, sulla questione della strategicità, a me pare che coloro i quali avevano a suo tempo salutato con grande entusiasmo i processi di privatizzazione che erano stati, diciamo, promossi nel corso degli anni 90 e poi in seguito, stiano forse cadendo in un rischio analogo, io se non ricordo male, ai tempi della stagnazione bresneviana in Unione Sovietica. I membri del Politburo dicevano che non si era fatto bene il socialismo e che bisognava farlo meglio per giustificare la stagnazione. Ecco, a me pare che i privatizzatori dell'epoca stiano dicendo oggi che non si sono fatte abbastanza bene le privatizzazioni e bisognerebbe farlo meglio. A me pare francamente che questo modo di interpretare tutta la vicenda non, come dire, trovi riscontri nei fatti. Mi spiego. Telecom è di nuovo in vendita, per la quinta volta dalla privatizzazione del 97. Ora, noi ci ritroviamo di fronte ad una storia e ad una vicenda che, stando ai rapporti ufficiali, tra i quali quelli della Corte dei Conti, noi scopriamo che in realtà, in primo luogo per quanto riguarda la privatizzazione all'origine, quindi vizio a monte, non si verificò una rivalutazione dei cespiti patrimoniali all'atto primo di vendita. Dopodiché, i guadagni principali che vennero ottenuti su Telecom sono stati realizzati dai mediatori che in condizioni di scarsa trasparenza, ripeto, Corte dei Conti, hanno ottenuto guadagni molto significativi, e dai riders, cioè da coloro i quali si sono inseriti nei processi di acquisto e di vendita. Il risultato in termini di indebitamento pesante che contraddistingue Telecom dipende anche dalle modalità della privatizzazione a monte e successivamente dalle operazioni di acquisto e di vendita che hanno avvantaggiato, ripeto, non certo gli utenti e i contribuenti a suo tempo, ma hanno avvantaggiato riders e mediatori. Brancaccio, benissimo. Tra l'altro ci chiedono gli ascoltatori, ieri, hanno detto, dato che ha chiamato un ascoltatore facendo i nomi di Colaninno e Tronchetti Provera, io ho detto, guardate, oggi non è il tema di questa giornata, domani ci torneremo, faremo i nomi, facciamo anche i nomi di Colaninno, di Tronchetti Provera, dei cosiddetti capitani coraggiosi, così furono chiamati all'epoca presidente del Consiglio Massimo D'Alema, si disse ampiamente regista dell'operazione, anche se lui naturalmente smentì, perché insomma naturalmente doveva smentire. Emilio Gnutti, Roberto Colaninno e altri 180 imprenditori del Nord, gente che ha comprato Telecom a debito sostanzialmente e poi scaricando i debiti sulla società, molto, molto semplicemente e molto nitidamente. Voglio sentire... Scusi, per aggiungere una cosa. Sì, prego. Non vorrei tuttavia, e ripeto, che si dicesse adesso che le privatizzazioni sono state fatte male e potevano essere fatte meglio. Io comincerei ad interrogarmi in generale sulla strategia di privatizzazioni che è stata realizzata. Io so che qua richiamo in causa Stagnaro e vediamo che cosa succede. Sentiamo intanto Luca da Livorno. Buongiorno Luca. Buongiorno, senta, io sono un azionista Telecom e sono contento di quello che sta succedendo, perché spero migliori un pochino la situazione, visto che a me risulta che la posizione finanziaria netta è molto inferiore, non è 28 ma arriva a 43 su un fatturato di 38 miliardi di euro, quindi una società talmente indebitata è già tanto se qualcuno l'ha voluta. E poi, a parte Snam e Snam e Terna, che hanno indebitamenti proporzionati tali, Telecom c'è troppa concorrenza, quindi è bene che sia stata acquistata, secondo me, da Telefonica. Lei è un azionista, tra l'altro, mi scrivevano, sì. Qua. Ah, perfetto. Bene, quindi tutto contento, però se la piglia un'azienda che è altrettanto indebitata, Luca? Sì, ma indebitata pari, perché 45-43 siamo lì. Bisogna guardare la posizione finanziaria netta, non solo l'indebitamento. Va bene, Luca la ringrazio. Allora Stagnaro, io immagino che vorrà replicare a Brancaccio, che dice no, però poniamoci proprio il problema di come vengono fatte le privatizzazioni. No, io sono molto d'accordo. Non di come vengono fatte, addirittura poniamoci il problema delle privatizzazioni. Ho capito bene, Brancaccio? Sì, sembra okay. Che le evidenze ci aiutino in questo senso. Stagnaro, prego. No, io sono molto d'accordo con quello che ha detto Brancaccio. Non abbiamo realizzato bene il socialismo in Italia, nel senso che nel passaggio dal comunismo di guerra alla nuova politica economica il nostro paese ha dimostrato meno coraggio riformista di quello avuto da Lenin nel 21 in Unione Sovietica. E cosa intendo con questo? Brancaccio dice il problema delle privatizzazioni e non di come sono state fatte, però non possiamo ignorare il fatto che le privatizzazioni, e in particolare nel caso di Telecom, hanno avuto aspetti oscuri e aspetti luminosi. L'aspetto oscuro sta nel fatto che noi abbiamo privatizzato scegliendo il compratore, proteggendo il compratore, scegliendo il compratore successivo e quello successivo ancora, sempre attraverso un'attenta gestione politica dei passaggi di proprietà e sempre facendo in modo che i passaggi di proprietà avvenissero tirando fuori di tasca la minor quantità di capitale possibile. E tutto questo con danno, beffa e aggressione ai diritti dei piccoli azionisti di Telecom in primo luogo, come Luca che ci ha appena chiamato, che sono sempre stati considerati, come dire, tasca profonda da cui pescare, perché comunque i giochi di potere si sarebbero svolti altrove. Ma non di meno, perfino una privatizzazione malfatta e problematica che ci mette in una situazione come quella in cui si trova Telecom ha generato dei risultati positivi. Il primo e più importante di tutti è che il problema del paese, il problema mio come contribuente e cittadino, suo, di Brancaccio eccetera, non è Telecom o non Telecom, è avere o non avere un buon servizio telefonico. La privatizzazione, assieme al recepimento delle norme europee, ha consentito di avere un ragionevole grado di concorrenza, soprattutto nel mobile, meno nel fisso, e meno nel fisso esattamente per il modo in cui abbiamo privatizzato, che ci fa avere oggi un servizio telefonico assolutamente dignitoso, pagando meno di quello che pagavamo e di quello che avremmo pagato per avere lo stesso servizio. Ora, io credo che sia importante distinguere nettamente tre cose. Primo è la qualità del servizio telefonico, che prescinde da Telecom, dai suoi proprietari e così via. Secondo, il destino di Telecom come problema politico, e a mio avviso oggi il destino di Telecom non deve e non può essere un problema politico. Terzo, le modalità in cui la vicenda Telecom, ma potremmo parlare di Alitalia o di altro, si è svolta nel corso degli anni, e tutti gli errori che oggettivamente sono stati commessi. Da questo punto di vista, il fatto che Telecom passi in mano uno straniero è sicuramente un elemento positivo. Sarebbe stato meglio se 5-6 anni fa probabilmente l'avessero comprata quelli che erano disposti a pagare di più, cioè AT&T e America Mobile, che magari ci avrebbero investito a differenza di quello che è accaduto fino ad oggi. Ma quantomeno, se Telecom passa in mano a uno straniero, ci troveremo nella condizione in cui la principale azienda telefonica del paese non è più in mano agli amici degli amici, e in cui quindi la concorrenza verrà considerata come un obiettivo meritevole di essere perseguito in sé per sé e senza preoccupazione di far male agli amici. Da questo punto di vista, e chiudo, io credo che sia istruttivo leggere, non parla solo di Telecom, parla anche di altro, e proprio per questo sia istruttivo leggere l'intervista del ministro Maurizio Lupi oggi sul Corriere della Sera. Maurizio Lupi parla di Alitalia, Telecom eccetera, facendo emergere che in ciascuno di questi dossier la sua principale preoccupazione, io cito lui perché la dice lui, queste cose possono essere applicate a qualunque altro partito e quasi qualunque altro esponente politico, la sua principale preoccupazione è mantenere la possibilità del governo o dei politici e dei partiti di decidere chi comanda, di decidere cosa fa, di decidere dove si investe, di decidere cosa si fa. È chiaro che questo è comunismo di guerra e non è nuova politica economica. Allora, su questo io voglio sentire Airaudo, ma subito dopo la pausa. 9 in punto. Ah, tra l'altro possiamo prevedere che qualcosina si muoverà ancora, perché se nella stessa audizione al Senato Franco Bernabé dice che ha avuto lettura dai comunicati dell'operazione e dice anche che per evitare il rischio di downgrade, quindi del taglio del rating, potrebbe procedere ad un aumento di capitale aperto a soci attuali o nuovi, insomma, forse qualche sorpresina potrebbe arrivare. Allora, prima di far parlare Airaudo, un paio di cose da fare. Allora, prima leggere qualcuno dei molti messaggi che ci avete scritto su Facebook, a partire da Pietro Ricciardi, che ci dice che i paesi arabi stanno facendo man bassa di aziende italiane che acquistano non per investire sulla produzione, che spostano da loro dove i costi sono più bassi, ma per avere delle porte d'ingresso privilegiate al mercato europeo, e fa un ragionamento generale appunto sulle acquisizioni da parte di aziende straniere in Italia. Ci scrive Fabio Ferrari che il problema che tutto questo è la dimostrazione che il problema è nella politica, ma non solo, ma in generale nella classe dirigente. E ancora non male la battuta che mi fate che mi scrivete su Twitter, me lo scrive Mistakeness, a proposito della frase di Bernabé, che ha detto che insomma ha saputo della vicenda dai comunicati, dite anche Bernabé a sua insaputa, un po' come la vicenda, lo ricorderete, ne abbiamo parlato, di Claudio Scaiola. Prima ancora di Airaudo, Fabio Pavesi al Sole 24 Ore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a te e agli ascoltatori. Fabio, quanto ci hanno smazzato gli azionisti Telecom nel corso di questi anni? Ma l'aspetto tragico della vicenda, al di là di italianità o non italianità, un dibattito in cui non voglio entrare, è proprio la batosta che gli azionisti, devo dire, grandi e soprattutto piccoli, hanno preso da questa vicenda. Cioè, dalla privatizzazione, parliamo del 97-98, il titolo ha perso il 24% quando il listino europeo dei concorrenti, cioè il listino europeo delle telecom, ha guadagnato il 56%, quindi un andamento veramente a forbice. Nel 2005 la Telecom capitalizzava 50 miliardi di euro, l'altro ieri capitalizzava 8 miliardi, cioè una perdita secca di 42 miliardi di capitalizzazione. Siamo a livello di 2-3 manovre finanziarie bruciate sull'altare della borsa. Se usiamo la borsa come indicatore per valutare la qualità di una società, insomma, il consuntivo è disastroso. Cioè Telecom, come dire, io me la ricordavo nel 2000 a 9,5 euro, e vabbè, erano gli anni della bolla internetiana. Qual è il problema? È che sono crollati tutti, ma per Telecom è cominciata una lunghissima discesa al ribasso. Ieri il titolo valeva 60 centesimi, e questo la dice lunga sull'apprezzamento che il mercato ha dato alla società. E qui, come dire, le considerazioni sono, direi, facili, nel senso che c'è un peccato originale nella vicenda Telecom, e non è in sé la privatizzazione, è nella modalità con cui è stata fatta. Cioè i capitani coraggiosi dell'epoca misero poco capitale e misero molto debito. Insomma, e quando tu carichi di debito una società e quel debito non scende mai, allora Nel 2005 il debito era di 50 miliardi, siamo adesso debito finanziario totale a circa 40, ma è stato aveleggiato sui 40 miliardi ininterrottamente in tutto quest'ultimo decennio. Allora, se tu non riesci in qualche modo a diminuire la zavorra del debito e contemporaneamente fai un'altra operazione sbagliata, che è quella di vendere tutto quello che è all'estero, e questo è capitato sotto la gestione di Tronchetti Provera, e ti tieni solo il Brasile e l'Argentina, mentre la Vodafone, io penso alla Vodafone perché insomma è un competitore, se uno guarda il grafico di Vodafone in borsa scopre che chi ha investito in Vodafone ha guadagnato sostanziosamente. Qual è la differenza tra Vodafone e Telecom? Che Vodafone opera sul mercato globale, cioè è andato alla ricerca di mercati in crescita e lì è investito. Telecom ha fatto il contrario, cioè si è dimagrita all'estero, ha tenuto solo il Brasile e l'Argentina, paesi importanti, ma dove Telefonica ad esempio opera con margini forse migliori in Telecom, e ha finito per operare sul mercato domestico in una fase in cui aumentava la concorrenza e quindi i prezzi scendevano. Che cosa accade? Che tu il debito lo mantieni a 40 miliardi, ma il tuo margine industriale, cioè il tuo cash flow, si riduce lentamente, perché la guerra dei prezzi riduce la tua redditività. Allora, un investitore quando guarda una situazione di questo tipo, cioè la città non cresce e non cresce più, perché se tu decidi di non investire all'estero e di concentrarti su un mercato sacro come quello italiano, il mercato sacro tu non cresci più. E se quel debito originario, per mille ragioni, non viene mai, come dire, diminuito, la società borsisticamente è morta. Allora, in borsa accadeva che uno vendeva Telecom per comprarsi Vodafone. Questa è la realtà vera. Allora, ti fermo, Fabio. Mi scrive Matteo Benedetti su Twitter: che mi frega se sono stranieri, l'importante è il piano industriale che non vedo. Le devo dire, Matteo, sono testimone perché ero a Cernobbio nei giorni nei quali abbiamo raccolto al microfono le dichiarazioni di Bernabé, che in realtà diceva esattamente la stessa cosa. Diceva, prima serve un piano strategico, industriale, quello che è, insomma, e poi serve un socio. E io gli ho fatto una domanda a scherzo, gli ho detto, ma prima il programma, poi la coalizione, e lui mi ha detto esattamente, però insomma lo stato dell'arte è questo. Allora, Iraudo, l'ho tenuta un po' in attesa, mi perdoni. Allora, voglio capire da lei insomma la sua posizione su tutto quello che ha sentito, e anche secondo lei quale può essere la via d'uscita, perché rimane in ballo la possibilità di esercizio non della Golden Share, che non esiste più, ossia la possibilità da parte di un governo di intervenire su imprese che ritiene strategiche anche bloccandone l'acquisizione, da capire se si può fare tra paesi comunitari oppure no. Il Golden Power si chiama adesso, secondo il decreto varato dal governo Monti l'anno scorso. Che cosa ritiene che debba fare il governo? Esercitare questa opzione? Tra l'altro non c'è un regolamento per le TLC, non c'è il decreto attuativo, però insomma ritiene che questa sia la via? Ma guardi, intanto io penso che i suoi ascoltatori abbiano capito tutto, e poi vorrei dire ai suoi cortesi interlocutori che non esiste la privatizzazione ideale. L'Italia le privatizzazioni le ha fatte così. E allora è con questo che dobbiamo confrontarci, e sono privatizzazioni che non hanno né favorito il paese, né i suoi lavoratori, quelli che lavorano in queste società, né i servizi, perché noi ci troviamo con un patrimonio depauperato su cui sono state compiute n speculazioni, che siamo bravissimi a ricostruire a ritroso, ma che non abbiamo contrastato nel momento in cui si sono realizzate. Io cosa penso si debba fare? Penso che intanto si debba esplorare l'utilizzo di quello strumento che lei ha citato, il Golden Power, che però non ha il decreto attuativo, come ha detto lei. Credo, come si dice, che Bernabé stia tentando di reagire, ma ha gravissime responsabilità, perché insomma lui non può dichiararsi sorpreso proprio per le cose che ha dichiarato a lei, anche perché se è sorpreso non si capisce cosa ci sta a fare lì, per capirci. Però io penso che bisogna trovare il modo per tutelare ciò che è rimasto nell'interesse di questo paese per il suo futuro, perché il tema della rete, il tema di riuscire a pretendere un piano industriale da chi teoricamente, praticamente al controllo di questa società, ma che sappiamo non investirà, e sappiamo anche che ridurrà ulteriormente le risorse che vengono dall'estero, perché insomma Telefonica è interessata a ridurre le capacità competitive di Telecom in Sud America, come sappiamo tutti, e quindi ulteriori ristrettezze arriveranno anche da fuori. Penso che il governo debba pretendere e conoscere quali sono le volontà di investire in Italia, quali sono le volontà di mantenere l'occupazione, e non solo l'occupazione diretta, ma anche quella dei subappalti, perché nei subappalti è stata fatta strage in questi anni di posti di lavoro, di condizioni e, come si dice, di condizioni di trattamento degli stessi lavoratori. La rete di Telecom è strategica per disegnare qualunque possibilità di agganciare qualunque tipo di ripresa per qualunque tipo di produzione. E poi andrebbe aperto un ragionamento più ampio, perché stiamo discutendo di Telecom, ma io mi permetto di insistere, noi oggi al question time porremo un problema al ministro Zanonato sul futuro di Ansaldo Energia, sul futuro di ST e sul futuro della parte civile di Finmeccanica. E poi c'è il capitolo Italia, cioè, non so se è chiaro, c'è un nodo più complessivo che sta arrivando, è quello di come noi, di come riusciamo a tutelare nelle condizioni date dopo le privatizzazioni fatte. Non esiste una privatizzazione idealistica, e questo paese non è in grado di fare quelle privatizzazioni da manuale che ci vengono descritte in modo ideologico, perché questa è la classe politica e non è un altro, questa è la classe imprenditoriale, non ce n'è una di riserva a breve. E quindi penso che il governo debba essere costretto finalmente a parlare del futuro industriale, del futuro delle sue attività, quelle a cui partecipa, come partecipa, nell'interesse degli italiani, consumatori, piccoli azionisti e lavoratori. 9 in punto. Caro Alberto Agostini, che mi scrive su Facebook, ma glielo spiego, non ho invitato Davide Giacalone semplicemente perché non ci ho pensato, e poi va bene la trasmissione partecipata, però insomma non è che potete decidere pure gli ospiti, insomma lasciatemi un margine di autonomia. A Francesco Della Croce invece, che dice: non mettiamo la testa sotto la sabbia, il signor Tronchetti ha eroso Telecom a favore di Pirelli, ma non ditelo, meglio non pestare i piedi ai capi. A me sembra che in questa trasmissione francamente si sia detto tutto, ne ha parlato Stagnaro, ne ha parlato Brancaccio, hanno parlato tutti quanti. Vladimiro, dalla provincia di Arezzo, buongiorno. No, prego. Hanno parlato e io continuo fuori dai denti quello che non hanno il coraggio di dire, forse perché temono una querela, ma se un manager di Stato, para di Stato, eccetera, sbaglia, la responsabilità è sua e chi deve pagare? Non paga mai. Cioè, questa gente che sono prima l'Italia, poi Ferrovie, poi Enel, poi Poste, Telecom, sono sempre i soliti che girano intorno a queste aziende di Stato, le spolpano, le fanno fallire e poi vengono premiati con delle ricche buonuscite. Devono pagare, devono andare in galera. Su Alitalia, guardi, soprattutto su Alitalia questo è stato molto vero. Adesso non so se debbano andare in galera. Su Alitalia questo è molto vero. Devono andare in galera se hanno frodato, se c'è dolo, se uno ha frodato è chiaro che va in galera. Se uno si prende la buonuscita e non se la merita, insomma è colpa di chi gliela dà la buonuscita, non sarà mica colpa sua. Però insomma diciamo che su Alitalia ha perfettamente ragione, quello che è successo con i pagamenti ai manager quando l'azienda era pubblica è oggettivamente allucinante. Diverso discorso, ci ha messo dentro un po' tutte le aziende, diverso il discorso per esempio di Poste, che insomma da qualche anno che è un'azienda che funziona, da più di qualche anno probabilmente. Luciano da Udine, buongiorno. Allora, voi parlate solo dell'aspetto finanziario della questione, a me interessa sapere, se ne siete in grado, che fine farà la rete fissa, che fine farà la rete, che se diamo l'accesso alla concorrenza, e mi riferisco alle aziende che avete citato prima, Vodafone ed altri, alla rete fissa in maniera più libera di quanto è adesso, perché adesso siamo vincolati da alcune leggine che hanno tutelato Telecom Italia, per esempio la disponibilità di linee sugli armadi, no? E quindi la concorrenza de fatto era molto limitata alla disponibilità di Telecom Italia. Allora, là Luciano, sulla rete sta continuando a circolare l'ipotesi che intervenga la Cassa Depositi e Prestiti, nel senso che la rete passi nelle mani della Cassa Depositi e Prestiti. Da dirle che Bernabé questa mattina ha confermato il proprio impegno a procedere nel confronto con l'autorità e la Cassa Depositi e Prestiti, ma dice l'esito finale dell'operazione non è scontato, e questo probabilmente per una serie di motivi. Innanzitutto perché adesso il controllo di Telecom è di Telefonica, e quindi questo è evidente, perché circolano voci di un'uscita di Bernabé, e dice in ogni caso la cosa richiede tempi molto lunghi, e poi perché appunto bisogna capire a che condizioni avviene tutto questo. Allora, l'ultimo minuto da una parte e minuto dall'altra con Brancaccio e Stagnaro. Prego Brancaccio. Sì, guardi, io credo che lei abbia fatto bene ad introdurre questa trasmissione facendo riferimento alla parola strategicità, ma per poter ragionare seriamente in termini di strategia, noi, io credo, dobbiamo liberarci di una serie di dogmi che hanno imperversato in questi anni. Per esempio, si faceva riferimento ancora una volta al fatto che la privatizzazione è stata fatta male. Ma io continuo ad avere dei dubbi a questo riguardo, mi pare che il problema sia la privatizzazione. Mi spiego, perché all'epoca si diceva che si poteva comprare a debito? Perché si diceva che il mercato deve garantire contendibilità, ve la ricordate la parola d'ordine della contendibilità? Cioè si diceva che gli acquirenti potevano tranquillamente indebitarsi e comprare perché avrebbero reso più efficiente l'azienda e di conseguenza avrebbero quindi ripagato il debito. Questa è una, diciamo, dei tanti mantra, delle tante visioni un po' ideologiche che hanno contraddistinto i processi di privatizzazione anche in Italia, ma non soltanto, e che io credo dovrebbero essere ridiscussi, perché altrimenti io temo la strategicità noi ce la dimentichiamo. Vorrei aggiungere un'ultima cosa, e cioè teniamo presente anche che questo affidarci alla meccanica del mercato, talvolta fa danni, perché uno dei motivi per i quali poi questo debito, come giustamente il suo collega osservava, è stato accumulato e non si è riuscito a ripagarlo, dipende anche dal fatto che il compratore, e mi riferisco a Tronchetti Provera in particolare, che ha gestito l'azienda, diciamo, nelle fasi chiave, ha effettuato l'acquisto in un picco alto della dinamica del mercato finanziario e si è fatto il cosiddetto bagno, perché avendo comprato al picco alto e poi essendosi ritrovato con una caduta e una precipitazione dei valori azionari non è riuscito più a recuperare. Anche questo è il mercato non fa solo bene, il mercato può fare anche tanto tanto male. Allora, ci vuole diritto di replica, un minuto per Carlo Stagnaro. Ma la contendibilità mi sembra una parola vuota nel paese che tutte le volte che uno vuole comprare Telecom si straccia le vesti, scende in piazza e mette i bastoni politici tra le ruote agli azionisti sgraditi. Ma uso il minuto per una nota sulla rete telefonica. Qualunque cosa succede nel futuro non può essere peggio di quello che è successo nel passato. Gli azionisti, la rete, gli azionisti italiani, la rete l'hanno mal gestita e lasciata marcire. Magari con gli stranieri ci va meglio, diamogli almeno il beneficio del dubbio. Diamogli dunque questo beneficio del dubbio agli stranieri. Allora, noi chiudiamo qua questa puntata di 9 in punto. Un ringraziamento a tutti quanti. Emiliano Brancaccio, economista, docente di economia politica all'Università del Sannio, lo ricordo ancora una volta, autore di un monito, di un appello di economisti che è apparso sul Financial Times e che comprende alcuni anche economisti stranieri. A proposito di austerity, insomma, vi consiglio quando lo troverete di andarvelo a leggere. Giorgio Airaudo, deputato di Sinistra Ecologia e Libertà, Carlo Stagnaro, direttore di ricerca e studi all'Istituto Bruno Leoni, Fabio Pavesi, gli ho fatto fare un solo intervento, ma insomma mi sembrava ficcante e possente. Grazie a tutti quanti, grazie a Laura Faggin in redazione, Carmelo Lauricella in regia, a tutti voi per l'ascolto, ci risentiamo domani. Ricordati! Mancano 5 giorni all'aumento dell'IVA. Radio 24, la passione. Si sente.